America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Bene, nella puntata precedente abbiamo fatto un confronto tra le scelte del critico del New York Times Anthony Tommasini e Armando Torno. Si sono trovati d'accordo sulla scelta del numero uno a Sebastian Bach come il primo compositore, il più importante compositore della storia, numero due Beethoven. Veniamo a questa seconda puntata dove abbiamo altri due musicisti, terzo posto e quarto posto, e Tommasini attribuisce il terzo posto a Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, e dice: non è stato facile decidere tra Mozart e Beethoven per il secondo e terzo posto. Se ci si limita alla musica strumentale per orchestra, sono a pari merito. Mozart in più è stato un grande compositore di opera lirica e questo dovrebbe farlo prevalere. Tuttavia, ho ritenuto più giusto, dice, dare a Beethoven la seconda posizione per la sua complessità tecnica. Armando Torno di nuovo ai microfoni di America 24. Buongiorno Armando, di nuovo in linea con noi. Sei d'accordo con Tommasini dunque? E allora, Mozart è la musica, Mozart è l'espressione più bella. Cioè, Mozart è talmente vasto, talmente bello, talmente nostro che è impossibile decidere. Aggiungo anche che una confidenza che mi fece la grande cantante Elisabeth Schwarzkopf, io andavo a trovarla a Zumikron, proprio in periferia, lì un paesino fuori Zurigo, negli ultimi anni della sua vita, passai con lei una giornata, mi parlò dei grandi direttori, delle sue esecuzioni, e disse che a una certa età Mozart diventa come l'aria, si ha bisogno ogni tanto di ascoltarlo, di cantarlo, di metabolizzarlo nella propria anima. Usò un po' questa espressione e io la capisco perché man mano passa il tempo, quello che in fondo era un amore di gioventù diventa quasi una necessità. Si ha bisogno di una certa aria in un momento di tristezza, si ha bisogno, che so io, di ascoltare Mozart in un momento di gioia. Poi Mozart non sempre è gioioso, anzi sa essere quasi sempre triste. Mozart enigmatico, e poi questa dannata capacità di liberare una nota, la fa volare lì come una piuma, uno cerca di afferrarla, crede di afferrarla e poi gli sfugge, apre improvvisamente un cofano, fa uscire un'armonia che sembra tolta dal cielo. Mozart è miracoloso in ogni momento. Al quarto posto Franz Schubert, il quarto tedesco, quattro tedeschi austriaci, diciamo, di origine, comunque di radice, di matrice tedesca. Ma sì, Schubert lo accettiamo. Schubert nacque in una famiglia poverissima, ebbe una vita anche di disgraziato, insomma, il padre lo mandò in un convito, Schubert lo frequentò con dei risultati scolastici disastrosi a causa dei suoi contrasti con i maestri, con i professori, e fu proprio lì che apprezzò la musica. La musica di Schubert è qualcosa di ricavato dall'esistenza, è qualcosa che è scavato quasi anzi nell'esistenza. Schubert è un musicista che ha sangue, ha cervello, ha vigore, ha gioia. Schubert è triste magari in un Lieder e poi esaltante in qualcosa che noi pensiamo sia triste. Schubert, per dirla in una parola, è l'espressione del fallimento romantico di un ideale, ma allo stesso tempo è il trionfo di tutto quello che il romanticismo di bello poté fare e poté dare. Schubert quarto posto. Certo, qualcun altro avrebbe potuto dire: perché no Handel, e perché no, che so io, Vivaldi. Certo, Schubert, diciamolo pure, che ha una storia personale e ha anche avuto una diffusione, una fortuna, che gli consentono tranquillamente di ottenere il quarto posto. Se avessi dovuto fare io il pagellatore, in questo caso il New York Times, forse avrei scelto come quarto posto Handel, ma non contesto questo quarto posto a Schubert, innanzitutto perché, ho detto, Schubert ha un apparato, ha una capacità, ha una vivacità che ce lo fanno tranquillamente mettere tra i grandi, e poi soprattutto Schubert ha una caratteristica. Chiunque di voi, chiunque di noi guarda nella vita di Schubert, nelle sue composizioni, in quello che ha fatto, in quello che ha tentato, in quello che ha discusso, trova sempre un po' se stesso. Le delusioni, le vittorie, le gioie, i momenti grandiosi e l'incompiutezza, la capacità molte volte di fare un immenso progetto e di lasciarlo lì come un torso, eppure quello è il vero progetto dell'uomo. E la musica sovente è fatta di torsi, è fatta di cose incompiute, è fatta di note che non finiscono, è fatta di corse che non terminano. Ecco, la bellezza di Schubert è anche in questo riflesso. L'Ave Maria è una preghiera spettacolare, una preghiera arditissima, tutta basata anche sulla capacità del sovrano, ma che cos'è in fondo? È una disperazione quasi totale verso quella divinità che non si mostra, quella divinità che tace, e quindi quel dialogo che viene a mancare e che Schubert chiede disperatamente con quelle note. Ecco Armando, vorrei approfittare per chiederti anche un tuo parere, un confronto alla distanza su allestimenti, orchestre, produzioni. Europa, Stati Uniti, Scala Metropolitan, orchestre sinfoniche europee, orchestre sinfoniche americane. Chi vince nella tua classifica? Ma nella mia classifica in questo momento vince purtroppo il Metropolitan. Dura di più la musica al Metropolitan che non in Italia. La musica al Metropolitan è affrontata con maggior professionalità, anche se c'è molto repertorio, anche se ci possono essere delle scivolate o delle situazioni che magari un pubblico italiano non accetterebbe. Ma certo che le difficoltà italiane, che vanno un po' guardate attraverso la lente dei problemi economici che in Italia affliggono ogni cosa, e poi anche a certa schifiltosità nel mettere in scena certe cose, nel non tenere un repertorio, hanno condannato sovente alcuni capitoli di storia della musica proprio al silenzio, diciamolo pure chiaramente. Io pensavo che in quest'anno, i 150 anni dell'Unità d'Italia, un teatro magari avesse il coraggio di riprendere tutte le musiche del Risorgimento, di riprendere, in realtà sì, qualcuno lo sta facendo, ma sono casi isolati, situazioni isolate. L'America avrebbe fatto un anno magari di rappresentazione, ripetendoli 20-30 volte. L'America è una nazione, l'Italia non crede ancora di esserlo, anche se gli Stati Uniti d'America sono tanti stati e l'Italia forse sono tante regioni più divise di quegli stati, ecco. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre in odore di musica classica, classifica dei grandi compositori di tutti i tempi, Ave Maria di Schubert, interpretata da Céline Dion. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.